Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? Andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. Sì, alla fine il totale è 26 e mezzo anziché 24 e mezzo, quindi è aumentato di 2 miliardi. Sono 2 miliardi. Beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Le tasse, passo dopo passo, vanno giù. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. Poi non basta, non basta. Bisogna fare meglio, bisogna fare meglio. Scendono le tasse, va giù l'IRES, che era al 27,5 e va al 24. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Saranno anche bonus, ma sono 4 anni, sono 4 manovre, 3 anni che facciamo bonus, a differenza di chi per 30 anni ha fatto malus. Chiudere Equitalia significa chiudere con quel modello lì e aprire un meccanismo per cui quando non paghi una tassa ti arriva un SMS, non ti arriva un commesso giudiziario, un ufficiale giudiziario. On the dirty boulevard, going out. Ah, signori, ogni anno quando c'è la legge di stabilità se ne sentono delle belle cifre, numeri, critiche, accuse, difese. La verità è che non esiste neanche un testo di tutto quello di cui stiamo parlando. Esiste una conferenza stampa, esistono delle slide, non c'è il testo per dire. Non c'è il testo. Però analisi, discussioni, interviste, la Camusso che dice no, è sbagliato, Nannicini, sottosegretario, che dice no, è giusto, Renzi che fa un'intervista al giorno e dice abbassiamo le tasse, la stampa dice che dall'Europa le fonti dicono già no, non va bene così i numeri, ma non c'è il testo. Per dire... La rottamazione delle cartelle di Equitalia, Corriere della Sera, rottamati 100 miliardi di cartelle. Repubblica, rottamate 75 miliardi di cartelle. La Stampa, rottamate 55 miliardi di cartelle. Il Giorno, rottamate 51 miliardi di cartelle. Ho finito, se andavo avanti arrivavamo a 0 miliardi di cartelle. Non lo so, non lo so. È che non si sa. Per dire, no, tutto chiaro, no? Al momento non si sa. Diciamo, si saprà. Ecco, mettiamola così. Signori, sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino. E intanto una cosa si sa. Apre oggi la 181esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Si sa anche che Peter Bescapè è in licenza matrimoniale. Queste sono le certezze, eh? Si sa anche che Carmelo Lauricella è qui in regia e Lorenzo Nespoli qui in redazione. Anche questo si sa. Si sa anche che il Milan è secondo in classifica, signori. Secondi. Ci siamo guardati e Lorenzo mi ha detto: ma da quanto tempo è che non siamo secondi? Sbaglia il rigore, Icardi al 26esimo. Poteva essere il 7º gol in campionato. Porca miseria, poteva essere il 7º. Silvia Brasca, porcaccia la miseria, poteva essere il 7º gol. Ero lì io, eh. Ah certo, eri tu, eri lì, abbonata all'Inter. Ah. Come va, cara Silvietta? Pericolosamente davanti! Nel Melchiorri fa ancora sognare. Melchiorri in Baldassarri non è arrivato. Melchiorri in Baldassarri. Che brutta persona che sono, puoi dirlo. Che brutta persona. Sei proprio una brutta persona. Poi. Ma non è vero, dai. Dai, puoi anche dire. Se il calcio, come hanno detto, è la più importante tra le cose meno importanti, si può anche parlare di questo. Sì, però. Dai. Almeno lì ci sono certezze, per esempio, sulla manovra, sui numeri, non tanto, sono ballerini. Invece qui la classifica parla chiaro, per dire, non è che ci sono numeri che... Vabbè, comunque, cara Silvia Brasca del TG della 7, sì. Ti voglio presentare un altro interista, Alessandro Giglioli. No, non c'è, non si è svegliato. Non si è svegliato. Ha sentito il gol di Melchiorri e non si è svegliato. Io non sono pronta sulla manovra. No, ma neanch'io, ma stai tranquilla. Ho cercato di studiare, prof, ma però non ma no, ma tanto. L'unica manovra, guarda, può essere un traversone, la manovra, la ripartenza, possiamo parlare di quello. No, tranquillo, non parliamo di quello. Intanto apriamo il Parlamento. Eccola lì. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Vabbè, Claus. Quindi vuoi la giustifica? Adesso la deve portare lui. Almeno mi sono presentata. Ah, eccoci, infatti. Almeno ti sei presentata. No, la solita accusa è quella: ha messo i bonus, le mance. Il Fatto Quotidiano, per esempio, accusa, dice sono 8 miliardi di mance. Oggi, per esempio, Poletti, visto che non ci sono tanti bonus, annuncia una novità sulla stampa: un bonus per le imprese del sud che assumono giovani o disoccupati. Si va avanti un po' così, mi sembra. Questa è così una considerazione che si può fare. Bonus, il bonus alle pensioni, il bonus se assumi, il bonus se c'hai 18 anni, il bonus se sei dell'Inter e sei un po' in difficoltà e quindi ti dobbiamo dare una mano psicologica. Un po' così, si va avanti a bonus. Dobbiamo tirare il 4 dicembre. Eccola lì. Non so di stabilità, ma la tocchi piano, come si suol dire, no? Dobbiamo arrivare lì. Intanto ci sono, adesso io so che ci sono tutte delle tappe importanti, che sono quelle della presentazione all'Europa, e si va al 16 novembre, sì, quando il giudizio vero e proprio di Bruxelles del 16, vero e proprio di Bruxelles, è atteso il giudizio di Bruxelles. È un po' un giudizio 16 divino, novembre. È un po' un giudizio divino. Sì. Questo giudizio divino che ovviamente dobbiamo attendere. Allora, intanto noi stiamo tentando una convocazione al volo, cara Silvia Brasca, perché in genere la risposta dell'onorevole Bianconi quando lo chiamiamo a quest'ora è questo: ecco qua, è saltato qualcuno e mi chiamate. Ma noi gli vogliamo bene in realtà l'onorevole Bianconi, nel senso che lo chiamiamo anche spesso non per tappare i buchi, quindi adesso già me lo troverò. E adesso Bianconi. Vediamo. Già vediamo. Vediamo un attimo. Vedo Lorenzo Nespoli. Adesso me lo troverò già nervoso perché è nervoso. È nervoso perché è anti-renziano. È nervoso perché è toscanaccio. È nervoso perché lo chiamiamo forse per tappare un buco. E quindi insomma troveremo un bel clima da parte dell'onorevole. Ma è un affidabile che si sveglia presto la mattina. L'affidabilità si può sbandierare. Vediamo se è arrabbiato, Silvia. Vediamo. Onorevole Bianconi, buongiorno. Buongiorno. È arrabbiato? No, perché? No, perché ho detto adesso chiamano, adesso risponderà subito così. Ecco, mi avete chiamato perché è saltato qualcuno, poi è arrabbiato, è toscano. Mi avete chiamato perché è saltato qualcuno, ma mi potete chiamare tutte le mattine perché io vengo volentieri. Ah, va bene, vedi se... È con Silvia Brasca nel TG della 7, deve dire qualcosa a Mentana, caro Bianconi, c'è Mentana che la fa arrabbiare, la nostra Silvia. No, è Mentana. Poi interista. Mentana da una vita, quindi abbia abituati. Poi abbia un po' di compassione che è interista in questi momenti. Sono Forza Inda. c'ha già le sue gatte da pelare. Questo è il problema. Come va l'Arezzo a proposito? Va benino in Serie C, ma io non lo seguo più perché è diventata una di quelle squadre che vengono i romani con i soldi da da mettere a posto a fare il presidente. Faccia quindi conto che da noi vengono i cinesi, quindi sì. Anche, sì, ma almeno ce l'hanno i soldi veri, quindi sa che anche su questo poi è vero. Ma lì perché lì c'è il gioco misterioso del mago per tutto. Ecco. Non si è mai capito bene di chi siano quei soldi, non si è mai capito. Senta, qua Bianconi, stavamo parlando con Silvia Brasca della legge di stabilità, detto che non esiste manco un testo, quindi stiamo parlando del nulla. Se vuole dire sul nulla anche lei qualcosa, dai, dica. No, io sono stanco di questi annunci e di questi commenti sugli annunci, che naturalmente sviano l'opinione pubblica, sia in bene sia in male. Quindi io non mi pronuncio. Non si pronuncia. Se conosco Renzi, so quello che tenterà di fare. E quindi non mi sta bene, però questo in via generale, ecco. E ce lo dica anche a noi, ce lo dica anche a noi cosa tenterà di fare. Renzi ha una visione delle leggi finanziarie e di tutte le leggi tese al vantaggio prima di tutto elettorale. Ecco. Non è un uomo, nonostante che lo dichiari strategico, è molto tardi. Quindi temo che sia una finanziaria sul pronto più che una finanziaria di passo lungo. Questa è la mia cioè le mancette bonus, questo tema. Sì, mancette, ecco, bonus. Penso che sia una finanziaria di regalini, di apparenze renziane. Purtroppo la mentalità è questa. Comunque riscuote successo elettorale, quindi ha ragione lui, io torto io. Ecco, poi andremo a vedere. Guarda qua, 75 miliardi, fantastico. Sullo sconto della rottamazione di Equitalia, bello. Giornale che vai, cifra che trovi. Il Corriere 100 miliardi la rottamazione, Repubblica 75, e la Stampa 55. 93, mentre mi parlavate 93. Voi, un'altra di 93. Non so quale, perché sono lì che voglio. Tu Silvia, hai un attimo un numero da giocare all'otto di questi? Sono tutto su 55. Secondo te? Per me 55 sulla mediana. Ma lo chiedo a Bianconi, il testo quando è che si sa? Il 20? Quando è il 20? Ma che ne sa lui? Il testo lo pubblicano loro quando vogliono. Andrebbe dato all'Unione Europea. Sulle prime, sì. Sulle prime non ci si capisce veramente niente. Poi i nostri deputati, quelli preparati a questa cosa, si mettono lì, stanno lì un giorno e una notte e scoprono tutte le magagne, tutto quello che c'è. Sì. Ma più che un testo è, come posso dire, sembra una cosa di qualche mago, del mago Berlino. Sono i modi italiani di fare male le cose, insomma. Intanto Bianconi, Silvia da Sanremo ci scrive: viva Bianconi, lo vorrei tutte le mattine. Guardi che però Bianconi noi non paghiamo, tutto. No, ma io vengo volentieri. Senza gettone, che già parlamentare, insomma, gettoni state messi abbastanza no, bene. Sì, poi io ho quasi finito, quindi che vuoi gettonare. Vabbè. Allora, no, parliamo invece che cosa succede? Succede, tra l'altro Renzi, questo lo devo dire, fa un'intervista oggi al Giorno, quindi lo troverà, caro Bianconi, anche nell'edizione La Nazione. Dicevo dopo, La Nazione. Sì, ce l'ha con Bersani, guarda un po', dice, quando era, questa però è un po' vera, Silvia, quando era capo voleva sempre la fedeltà alla ditta. Adesso invece non gli va bene niente. Tra un po' chiederà i tagli alla sanità, dice. Si dimentica Renzi però che lì coi voti di Bersani. O i non voti di Bersani. O qualcuno dice è lì perché non è stato in grado Bersani. No, è lì coi voti di Bersani e è lì per la scemaggine, lo posso dire, perché Bersani lo stimo tanto, quindi se gli dico scemaggine non lo voglio offendere, di Bersani, che gli ha concesso tutto quello che ha voluto lui. Anche perché è uno degli epiteti meno gravi che lei ha dato, insomma, in questa storia. Poi non è un epiteto, perché è stato proprio, non è stato un capo di Bersani, non si è comportato più che da capogitta, da capogitta. Però D'Alema è già convintissimo. La finanziaria è una finanziaria elettorale. D'Alema, ragazzi, io non so, un giorno ci sarà uno psicologo che spiegherà bene qual è il problema di D'Alema. Sentite qua. In qualche caso giuste, positive, per esempio a favore dei sindacati, le pensioni, miglioramenti per i pensionati, si dà qualcosina ai pensionati e tantissimo agli industriali. La sensazione Quindi è una finanziaria che lei dice di una finanziaria elettorale. Abbastanza elettorale. Abbastanza, abbastanza Silvia, abbastanza elettorale. Tu l'hai capito esattamente. La psicologia, sì, sì, cioè, qual è? Non mi sembra sia molto difficile, no? Cioè, voleva un posto, insomma, cioè banalmente. I toni sono cambiati, i toni sono cambiati e adesso sono talmente virulenti che è proprio una cosa, si capisce, troppo personale, non è... Guarda, lo sai, sono andata a vederlo anche perché mi interessa. Sono andata a vederlo a due feste dell'Unità proprio perché volevo capire anche lì la gente. Sei stata, come lo sei stata ovviamente. Eri pagata, stavi lavorando, spero. No, un marito che è appassionato. Un marito che è appassionato di D'Alema, Bianconi. No, è appassionato. Della psicologia, no, della psichiatria, no, che cosa? È appassionato di che cosa? No, è appassionato di questa vicenda del referendum, ti assicuro. Bianconi, dica qualcosa. D'Alema è un'intelligenza mal riposta, ma è un'intelligenza. Ma senza dubbio, senza dubbio. E fra tutti quelli che c'è, è un gigante in questo momento. C'ha una rabbia, certo, quello... ha fatto la fortuna dicendo che D'Alema c'era dal tempo di Righeva e ne aveva fatto uno slogan. D'Alema era diventato lo zimbello di Renzi. Sì, certo. Se vi ricordate bene, si dimenticava che il suo protettore napolitano c'era dal tempo di Nilla Pizzi, però invece si ricordava che D'Alema c'era dal tempo di Righeva. Quindi D'Alema è stato lo zimbello di Renzi. D'Alema adesso si vendica, ma secondo me ormai è un... si vede che insomma c'ha il veleno agli angoli della bocca, insomma, c'è un po' di livore, dice anche delle cose giuste, c'è un po' di livore, dice così male che non diventa credibile. Ma il marito della Brasca, io sono rimasto così al marito della Brasca, che è appassionato di queste cose, e siete andati a vedere D'Alema due volte, non una. Sì. Non una, due volte. Ma sarebbe andato anche tre volte. Ma no. Sì. Sì, va bene. Guardi che D'Alema appassiona. Non si dà pace. Non D'Alema, si dà pace. Cos'è Bianconi? D'Alema? Appassiona anche me. Appassiona anche D'Alema anche è un uomo che, insomma... che sa di politica e che è vittima di se stesso, sì, è un dramma umano, D'Alema, non è che... è un dramma umano, su questo andiamo al traffico, il dramma umano di D'Alema, tra poco. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Sandro, io sono arrabbiato con te perché tu ogni volta che sei ospite in una trasmissione in televisione lo dici sempre il giorno dopo, non lo dici mai in anticipo, che ci daresti la possibilità di guardarti un po' in faccia. E te possino... Ma come cazzo fanno in Svizzera che sono in mezzo alle Alpi e c'è sempre la linea telefonica? Qui fai una curva, va via, poi ritorna, passa una scorreggia che va via la linea telefonica, la digito lui... Ma non la vanno a fanculo, quando cazzo la fanno sta digitalizzazione? Buongiorno Lino, se devi chiamare un pasticcere o un fornaio chiama pur me. Guarda, sono un fornaio, sono anche di Cantù, quindi se puoi mi chiami magari quando c'è Aurora, facciamo quattro chiacchiere in dialetto e facciamo una trasmissione così. Ciao, buona giornata! Lui ha detto di essere ateo, non è che non l'abbia detto, si è professato tale fino alla fine. Poi Corriere fa scrivere un articolo a Celentano per dire che dare fuori un credente senza saperlo, sono le teorie di Karl Rahner queste. E Karl Rahner, gesuita, teologo tedesco, che diceva che molti sono credenti senza saperlo. Questo però non mi risulta molto la Sacra Scrittura, diciamo. Vabbè, anche Don Livio Fanzaga ha sistemato Dario Fo, non risulta al direttore di Radio Maria. Però, signori, qua siamo con Silvia Brasca del TG della 7, siamo con Maurizio Bianconi. Sì, è vero, sono stato a Piazza Pulita giovedì in orari mattutini, tipo a l'una di notte, però, caro ascoltatore, vabbè, non l'ho detto, che devo fare? Non, ci sono cose più gravi, penso. Aveva un tono minaccioso. Aveva un tono minaccioso, esatto, perché voleva vedermi in faccia, magari anche presentarsi un attimo lì, che cioè, sembrava più, volevo sputare in faccia, che diamine. Brutto cretino d'un Milan. Eccolo lì. Allora, attenzione, sono le 6.49, io devo fare una dichiarazione. Devo dire che comincio a essere d'accordo con Maurizio Bianconi. Sì. Su infatti la segniamo questa, eh? È lunedì 17 ottobre, no, sono le 6.50. Sono d'accordo. Se mi telefona parecchio, piano piano vedrà che lo converto. Se mi converte, vabbè, la conversa. No, questa storia di Berlusconi. Ah. Che è per il no, ma in realtà effettivamente non lo fa vedere. È per il sì. Adesso ecco, vede, per convincermi di questo adesso ci vogliono almeno 3-4 telefonate ancora. No, è per il sì, lui è filo renziano. Vabbè, dai, adesso non esageriamo. Su questo ancora, per il momento rimane per il no, però effettivamente anche Salvini ha iniziato a dire: perché non lo dice esplicitamente? Perché non si mostra? Perché non fa una campagna? Cioè, mi sembra che sia un po' per il no, però non lo diciamo tanto ad alta voce, no? Adesso mi pare che questo emerga oggettivamente. Emerge, però la verità è che... Senti, Silvia, perché lui dice che c'è il complottone in realtà. Non è che c'è il complottone. Che lui sta proprio per il sì. Degli interessi. Fin quando gli interessi aziendali di Berlusconi potevano essere convivere con gli interessi del centrodestra, tutto ha funzionato. Sì. Quando gli interessi personali di Berlusconi sono entrati in collisione con quelli del centrodestra, e si sono avvicinati molto nella sfera di Renzi, tutto ha smesso di funzionare, perché per Berlusconi e le sue aziende è molto meglio che governi Renzi che non lui. Cioè c'entra Mediaset, c'entra... Non c'entra Mediaset. Ah no, come no, le sue aziende. Forza Italia è un braccio politico, è un ramo politico dell'azienda Mediaset. Eccolo. Lo sapevamo anche prima. Qua c'è Silvia Brasca che ci ha lavorato a Mediaset e conosce bene queste dinamiche. Dai, forza Silvia, svelaci tutto. Ma cioè, se Confalonieri vota sì, sì, mi sembra molto difficile che abbia, insomma, che non ne abbia parlato con Berlusconi. Insomma, l'idem sentire tra i due è davvero forte. E poi c'è la politica, lui deve uscire in qualche modo. E poi c'è politica, e poi c'è l'età, e poi c'è. Ma non è che infatti non si fa vedere perché fisicamente non è in grande forma. Lancio questa cosa banale, Bianconi. No, questa è una cosa secondaria. Senso che anche se non fosse in grande forma. Ma si immagina Berlusconi che si mostra fragile, si mostra in difficoltà, ma un filmato lo poteva fare. Ma un filmato, ma che è? Manda i filmati registrati. Berlusconi deve andare in mezzo alla gente, deve, no? In mezzo alla gente, doveva fare il predellino. Il predellino 3. Sì. Comunque, cattivo maestro, Alino, però tu non mi hai detto della prima del giorno. Cioè, la prima la foto che c'è sulla prima del giorno, Renzi che con l'anziana. Il titolo dell'intervista è "Difendo con voi gli anziani" e abbraccia un'anziana, ed è uguale alla fotografia che aveva il giornale per gli 80 anni di Berlusconi, che scelse la fotografia di lui col casco che abbracciava la vecchina dell'Aquila. Qua siamo proprio alla meta, al meta giornalismo. Ma lei è meta giornalismo? Ma no, ma perché c'è stata un'inchiesta? Ma c'è stata un'inchiesta sulle truffe agli anziani, allora del giorno. Ma dai, Alino, lo sai anche tu, non si fa. Non si fa. Vabbè, insomma, ma lo odiano. Non si fa. No, Bianconi, che è caduta la linea? Ci ha messo giù. Ecco, vedi, hai parlato di anziani, Bianconi si è arrabbiato. Ma è in Svizzera, allora abbiamo una sicurezza, non stai in Svizzera. Però io vi voglio far sentire l'ultima, quella della Raggi. Allora, la Raggi sono in un agriturismo a fare... Ecco, io però non ho capito questa cosa. Ha fatto questa diretta Facebook, le facciamo anche noi ogni tanto, poi non sapeva spegnere. Che peraltro Raggi c'è fine, dovrebbe esserci scritto fine, se clicchi lì prima fuori onda buca della politica fine, italiana fine. E vai. No, ma ha fatto questo video in cui rideva la Raggi, intanto abbiamo recuperato Bianconi, e adesso c'è questa cosa assurda, incredibile, che gira e dice: ecco, Roma va a pezzi e loro ridono. Ma cosa, ma adesso uno non può ridere, non può, no, non raccontate mezza barzelletta. Raggi devi, allora, velo nero, testa bassa, faccia un po' sempre così da funerale, un po' serio, non puoi ridere così. È stata quello che i giornalisti hanno chiamato conclave. Immagino che pagherebbero oro per avere queste immagini. Noi, vabbè, le adesso pagherebbero oro. Adesso io non pagherei mezzo euro. Comunque, E poi lì non sa ridere, cioè tutti allegri, contenti. Oddio, non sa spegnere. Sì. Non sa spegnere Bianconi, vabbè. Sì, no, un secondo solo. Volevo dire, io mi aspettavo dei comportamenti diversi. Questa è andata a fare il red carpet come Veltroni, ecco, non me lo sarei aspettato. Il red carpet dove? Alla cosa del cinema. Ah, la cosa del cinema. Con queste cose proprio bischere, non me le sarei aspettate. Se volevano dare il cambio, lasci fare l'assessore, ma almeno in queste cose estetiche dovevano cambiare, insomma. Cioè, non doveva andare al red carpet. Non doveva andare al red carpet. No, no, no, no, no, sotto il profilo dell'immagine, è proprio uno sbaglio. Non perché allora fai come lui, fai come lui. Con grande pregio che Veltroni, siccome è una prima donna nel cinema, ci sguazza, lo faceva meglio. Ah, ecco, appunto, lei no. Va bene, dai, mi devo fermare qui. Ringrazio Maurizio Bianconi e Silvia Brasca. Ci troviamo alla prossima, un abbraccio. Il segnale orario vi è offerto da tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. E va bene, alle 7:19 minuti. Forza signori, che è lunedì e bisogna iniziare la settimana. Peraltro 181esima decisiva per l'abolizione delle province. Quindi dai, non attardatevi, che la vita è già cominciata da un po' di ore in questo lunedì. Avanti, avanti, animo! Dai che dobbiamo leggere i giornali nella rassegna stampa di 24 mattino. Eccoci qui. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Insomma, si potrebbe discutere anche di questa massima del mitico padre Livio Fanzaga. Comunque, in questo lunedì 17 ottobre i titoli sono soprattutto dedicati alla manovra approvata sabato dal Consiglio dei Ministri. Per la verità, è bene precisare che al momento non esiste un testo, ma sono solo tabelle, annunci, slide, intenzioni, però un testo vero e proprio non c'è. Comunque, il Sole 24 Ore, partite IVA, chi ci guadagna con la nuova flat tax al 24%? Per il Corriere della Sera, tasse e cartelle, le nuove regole. Anche il Messaggero, Equitalia, maxi sconto sulle cartelle. Per Repubblica, Equitalia, sconti fino al 50%, evasione record. La Stampa già si proietta sul commento europeo. Sulla manovra, il gelo dell'Europa. L'Unione Europea non era quel che aspettavamo. Anche qui sono fonti dell'Unione Europea. Sul Giorno invece c'è un'intervista a Matteo Renzi. Renzi all'Unione Europea, basta egoismi, Bruxelles approverà la manovra, per i migranti spendiamo il giusto. Il Giornale, tagli e tasse, tutta la verità. Mentre il Fatto Quotidiano, manovra 8 miliardi di mance per il sì. La declina in questo modo il Fatto Quotidiano. Allora, vedremo tra poco la manovra. Prima però voglio partire dalle due pagine che Repubblica affida a Roberto Saviano. Perché lo fa oggi? Perché oggi, esattamente 10 anni fa, Roberto Saviano ricevette la telefonata che gli cambiò la vita, in un certo senso, nel senso che annunciò a lui la scorta. Dopo 10 anni sotto scorta, grido ai boss, io sono vivo. È il racconto di Saviano che fa il bilancio di questi 10 anni. Eppure È come se fosse accaduto stamane, racconta Saviano. Ci sono cose a cui non ci si abitua mai e una di queste è la scorta. 10 anni fa ricevetti una telefonata dall'allora maggiore dei carabinieri Ciro Lavolla. Non dimenticherò mai le sue parole. Cercava di non spaventarmi, cercava di dare una comunicazione tecnica, ma lui stesso aveva la voce preoccupata. Mi avvertiva che sarei stato messo sotto protezione e quando vennero a prendermi chiesi «Ma per quanto?» E un maresciallo rispose «Credo pochi giorni». Sono passati 10 anni. I motivi mi giunsero come una grandinata di situazioni che non conoscevo, una detenuta che aveva svelato un piano contro di me, poi le dichiarazioni di Carmine Schiavone, poi informative su informative. Avrei voluto tornare indietro e non scrivere più Gomorra, non scrivere più alcun articolo, rifugiarmi. Fare una sintesi di questi anni è difficilissimo. Le prime parole che mi sento di spendere sono tutte di gratitudine per i carabinieri che mi hanno scortato ogni giorno, così come per gli ufficiali che li hanno coordinati. Ho vissuto con i carabinieri gran parte del tempo. Ho visto il loro impegno, sacrifici, attenzioni, che in questo momento vorrei omaggiare. Sono diventati per me una famiglia. Spesso le loro caserme mi hanno accolto. E poi racconta ancora Saviano, si dà per scontata la libertà di espressione, in realtà è costantemente minacciata, ancor prima che dalle situazioni di minaccia militare, dall'isolamento, dalla diffamazione. Chi è esposto pubblicamente, chi decide di affrontare questi temi, sa che non avrà fatto una vita facile. Ma questi sono gli effetti collaterali della battaglia. Negli anni non ho dovuto subire solo la difficoltà di una vita sotto scorta, ma anche l'idiozia di chi parla senza conoscere nulla. La peggiore feccia politica ha sempre criticato la mia protezione come se fosse innanzitutto scelta da me. Ribadisco ancora una volta che non ne ho mai fatto richiesta e senza avere mai letto nessuna informazione al riguardo. Poi c'è da dire che Saviano racconta tutta la vicenda anche di una vicenda processuale nella quale emersero le minacce nei suoi confronti. E conclude l'articolo, le due pagine che trovate a pagina 10 e 11 su Repubblica. Nonostante tutto, quello che oggi mi sentirei di gridare loro, e cioè ai camorristi, in faccia, è non ci siete riusciti, non siete riusciti a ottenere quello che volevate. Non mi sono fermato, non mi sono piegato, anche se più volte mi sono spezzato. Ma se c'è una cosa che insegna questa lotta e che ho intrapreso con l'arma più fragile e potente che esiste, la parola, è che proprio quest'ultima può di volta in volta rimettere insieme ciò che è andato in frantumi. Esattamente come scrissi 10 anni fa in Gomorra, maledetti bastardi, sono ancora vivo. Così Roberto Saviano su Repubblica racconta i dieci anni sotto scorta. Tra l'altro questa sera su Rai 3 ci sarà alle 23.05 Saviano 10 anni dopo, un documentario di PIF sui 10 anni di scorta allo scrittore napoletano. Sempre su Rai 3 questa sera ci sarà Report e racconta nei giornali Repubblica, ma anche il Fatto Quotidiano, ci sarà un'inchiesta che riguarda anche Alfano, il fratello del ministro Alfano, Alessandro Alfano, la sua assunzione alle poste. Perché c'è la polemica? Perché Alfano sta cercando di impedire la messa in onda di questa che secondo lui non è un'intervista, perché è stata una dichiarazione estorta da una persona che non si è neanche qualificata come giornalista. Report si difende, il nostro collaboratore invece si è qualificato. Al di là di tutto, quale sarebbe il contenuto di questa intervista? Lo scopriremo poi questa sera. Il bagno d'oro per Alfano Junior. D'oro, questo è il titolo di Repubblica, un po' fuorviante, non è che è d'oro nel senso che è fatto d'oro, ma racconta in questa inchiesta Giorgio Mottola, Alfano Junior, il fratello di Alfano, si sarebbe fatto costruire un bagno personale nel suo ufficio nella direzione dell'area immobiliare Sud 2 di Poste Italiane a Palermo, una pretesa costata all'azienda 5.900 euro, con un progetto inserito nei lavori di adeguamento della sede realizzata nel corso del 2016. insomma, si sarebbe fatto fare un bagno personale anche se non autorizzato. Questo comunque lo vedremo. L'inchiesta TV è sulle spese del dirigente delle Poste, fratello del ministro, che dice l'intervista è rubata, non vada in onda. Vedremo. A proposito di interviste, a proposito di trasmissioni, a proposito di polemiche, come sempre c'è sia Libero sia il giornale che stroncano il programma di Veltroni, per la verità dicono stroncato dagli ascoltatori. Il programma firmato da Walter Veltroni, 10 cose, scritto dall'ex leader PD, costa 1 milione a puntata, di denuncia Libero, e non arriva la prima puntata all'11% di share in prima serata su Rai 1, 2.368.000 spettatori. Veltroni riesce a seppellire anche la Rai e l'accusa di Libero, mentre il giornale l'ultimo crack di Telerenzi, Veltroni affonda lo share. C'è anche un commento nella prima pagina di Libero del direttore Vittorio Feltri, che commenta in prima pagina: cambiano i governi, la TV di Stato fa sempre più pietà. L'ultima prova di ciò che andiamo sostenendo è proprio il programma 10 cose, ideato da Walter Veltroni, costato un patrimonio, ossia 1 milione a puntata, che moltiplicato per 4 puntate fanno 4 milioni. Uno sproposito se si pensa che il programma, l'esordio, è stato un clamoroso insuccesso. Oddio, nel campo della TV i fiaschi sono all'ordine del giorno, ma se dobbiamo bercene 4 e a quel prezzo si supera non solo il limite alcolico consentito, ma anche quello della decenza. Che titoli ha costui per ricoprire simile incarico? Ce l'ha con Veltroni, ovviamente, Vittorio Feltri. Uno solo che ci pare insufficiente. Suo padre era caporedattore dei notiziari Rai. Noi rispettiamo Veltroni, per carità, anche se nei panni dello statista non è riuscito a svettare, ma non ci sembrava il caso di mettergli nelle mani 4 milioni per organizzare una specie di fallimento. E va bene, e allora eccola qua la polemica servita per quel che riguarda il nuovo programma di Veltroni. Ma saltiamo sul Corriere della Sera, perché è il momento dell'articolo che mi fa pinzore della giornata. Per iniziare un lunedì in allegria, Sergio Rizzo racconta sotto i disastri della capitale, siamo sul Corriere della Sera, pagina 23, lo spreco delle due soprintendenze che si contendono i tesori di Roma. Lo sapevate? Ebbene così, da 91 anni, scrive Rizzo, ci sono i fori imperiali di destra e i fori imperiali di sinistra. Niente a che vedere con la politica. Il fatto che dal 1925, un anno dopo l'avvio del progetto fascista di radere al suolo il quartiere alessandrino per far posto alla via dell'Impero, l'immenso patrimonio archeologico della capitale ha due padroni. Un pezzo ce l'ha lo Stato, un pezzo il Comune. La fetta più grossa dei fori, quella sinistra della via che attraversa l'area andando dal Colosseo a Piazza Venezia, è di proprietà statale, mentre la fettina che sta a destra è comunale. Il Colosseo è dello Stato, ma il selciato romano intorno è del Comune. E la Domus Aurea, la strepitosa villa dei giochi di Nerone, è statale anch'essa, però i resti delle terme fatte edificare dall'imperatore di Traiano sopra la villa sono comunali. Come il mausoleo di Augusto, invece le terme di Caracalla sono dello Stato. Ecco l'assurda sovrapposizione stesa su tutta la città, ragion per cui a Roma da sempre esistono due soprintendenze, quella dello Stato, che fino a poco tempo fa era divisa in due fra archeologica e architettonica, e quella del Campidoglio, due eserciti sterminati. La soprintendenza capitolina ha più di 400 persone, quella nazionale viaggia sulle 700, ma non sempre sono schierate sullo stesso fronte. La Domus Aurea, per esempio, dipende dal piano, un po' del Comune, un po' dello Stato, un po' dello Stato, un po' del Comune, un po' del Ministero, un po' del Campidoglio, un po' del Comune, un po' al Ministero. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Tra l'altro, Alessandro Milan, il Jimmy Messina dell'informazione. Ah sì, il Jim Messina sarebbe il guru per il referendum. Allora, cari ascoltatori, siamo qua. Allora, la legge di stabilità. Premessa, il testo ancora non c'è. per cui quello che leggete sui giornali sono tutte indiscrezioni o commenti su quelli che sono stati gli annunci fatti dal Presidente del Consiglio. Volete un esempio plastico di questa incertezza che ancora aleggia? La questione, il provvedimento più discusso oggi dai giornali sono gli sconti dopo l'addio a Equitalia sulle cartelle da rottamare. Guardate la cifra. Per Repubblica 75 miliardi di euro in cartelle da rottamare. Per il Corriere 100 miliardi di cartelle da rottamare. Per la Stampa 55 miliardi di cartelle da rottamare. Per il Giorno 51 miliardi di cartelle da rottamare. Ecco, questa è la premessa per dire che ancora c'è da chiarire alcune cose. Roberto Petrini su Repubblica, pagina 6, sulle cartelle rottamate uno sconto fino al 50%, ma tempi più stretti. E quindi, ecco, tenete conto che le cifre, ognuno dà la sua. 75 miliardi di euro in cartelle da rottamare, 50 di crediti ancora esigibili, 25,4 attualmente oggetto di rateizzazione. Questa è la platea della mega sanatoria che consentirà a chi ha debiti conclamati col fisco di metterci una pietra sopra, dalle multe all'IMU, dalla TASI all'IRPEF, dall'IRAP all'IVA. Dal 1 gennaio del prossimo anno arriverà a tutti i contribuenti interessati forse l'ultima lettera di Equitalia, in cui si leggerà più o meno questo: il suo debito è di questa entità. Le proponiamo una definizione agevolata che le costerà la seguente cifra. C'è da precisare la cifra dovuta va pagata. Che cosa viene rottamato? Vengono rottamate le sanzioni, che possono arrivare anche al 200%, raddoppiando o triplicando la vecchia imposta, gli interessi di mora. Tirate le somme, lo sconto rispetto a quanto si doveva senza rottamazione andrà da un terzo al 50% della bolletta. Secondo le prime indiscrezioni sul testo del decreto che attende di essere pubblicato, non ci sarà un tetto massimo alla possibilità di accedere a questa rottamazione. In bilico è anche la riduzione dell'aggio di Equitalia, che potrebbe scendere dal 6 al 3%, addirittura annullarsi per la cartella sanata, ma su questo c'è ancora incertezza. Eccolo qua il Corriere della Sera. 100 miliardi di euro, a tanto ammonta la massa delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia, alle quali potrà essere applicata la rottamazione prevista dal decreto varato sabato. Comunque le sanzioni, la mora, l'aggio sarà ridotto, forse annullato, le sanzioni e la mora tolte, però l'importo della tassa va pagato, Su questo non c'è dubbio, per cui c'è la critica, chi dice è un condono vero e proprio. Per esempio Raffaele Marmo sul Giorno racconta così: è un classico condono né più né meno, questo è il giudizio esclusivamente tecnico di un grande vecchio del fisco italiano che preferisce non immischiarsi nel dibattito pubblico, lo dice in anonimato, mentre altri del governo sostengono non è un condono proprio perché l'entità dell'imposta va pagata tutta. Certo, viene tolta la sanzione, viene tolta la mora. Comunque, nel mirino per il Giorno, da 75 di Repubblica a 100 miliardi del Corriere, si scende a 51 miliardi le cartelle interessate. Va bene. Le posizioni, le interviste. Viene intervistato Matteo Renzi dal Giorno, il quotidiano nazionale, l'edizione del Nord, il Giorno. Andrea Cangini lo intervista. Il titolo è Renzi contro Bersani, ora chiederà tagli alla sanità. Intervista pagina 2 e 3. Intanto Renzi dice le tasse continuano ad andare giù e questa è la realtà. Dopo 80 euro prima casa, tasse agricole, IRAP, costo del lavoro, Jobs Act, ora è la volta dell'IRES, dell'IRI e dell'iperammortamento. Da quattro manovre la direzione è sempre quella, giù le tasse. E riguardo alla critica dei bonus, non la capisco. Dare una mano alle pensioni minime, una risorsa elargita a pioggia? Coprire le spese per epatite C, farmaci oncologici o vaccini è elargire a pioggia? Finanziare la scuola dell'infanzia sulla base del modello Reggio Emilia è risorsa elargita a pioggia? L'Italia deve crescere, siamo d'accordo, ma crescere non solo come PIL, anche nei valori, dalla scuola alla sanità. Poi Renzi si dedica a D'Alema, che si è distratto. Gli ricordo che l'impegno sull'IRES fu assunto dall'Assemblea PD. Il fatto che ci siano buone notizie per tutti dovrebbero renderlo felice, invece lo vedo nervoso anche su questo problema suo. Renzi si concentra anche sull'Europa, risponde ad Andrea Cangini, aspettiamo di conoscere le resistenze dell'Europa. Vogliono forse dire che spendiamo troppo sull'immigrazione? Grande considerazione. Se gli europei ci aiutano ad accogliere, se diventano meno egoisti, noi risparmiamo molti soldi. Lo dirò con buona educazione, ma anche con chiarezza, al prossimo Consiglio europeo. E poi critica anche Bersani, ormai è una disfida personale quella con D'Alema e Bersani. Dice Renzi, Bersani ha cambiato idea su tutto, dal ballottaggio alle preferenze fino alle riforme costituzionali. Quando era il capo richiamava al rispetto della ditta. Ora che all'opposizione ha cambiato idea anche su questo. Non mi stupirei se ora cambiasse idea e diventasse sostenitore della necessità dei tagli alla sanità. Mi pare che gli italiani abbiano sufficienti elementi per giudicare in libertà. E ancora sulla rottamazione delle cartelle, Equitalia è una creatura di Visco. Capisco il suo dolore mentre la chiudiamo, ma il punto è che il suo approccio al fisco non è il nostro. Noi non vogliamo vessare il cittadino, ma farlo cooperare. Se mi scordo di pagare una multa, deve arrivare un SMS e non un ufficiale giudiziario. Così Renzi nell'intervista a due pagine sul Giorno. Mentre sul Messaggero, a proposito di interviste, parla il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervistato da Osvaldo De Paolini, è una pagina intera, pagina 5, dice bene la spinta alle imprese, ora puntare sul capitale. Quello che Boccia propone e promuove di questa manovra è questo. Avevamo suggerito al governo tre priorità, le prime due, spinta a una maggiore produttività e riattivazione degli investimenti privati, e sono state pienamente accolte. La terza, che può essere sintetizzata nella maggiore attenzione alla finanza per le imprese, non è stata adeguatamente considerata, sebbene il fondo di garanzia sia stato potenziato e ciò è positivo. La sfida ora l'abbiamo accettata quando Renzi sostiene che le imprese ora non hanno più alibi e le centinaia di migliaia di assunzioni in più degli ultimi due anni ne sono la prova. Così Boccia, che poi ovviamente affronta tanti altri temi in questa intervista sul Messaggero. Intervista critica invece di Susanna Camusso sul Corriere della Sera. Risorse a pioggia nella manovra, manca un piano per il paese. Mario Sensini la intervista. Una legge in linea col passato mentre serviva un deciso cambio di passo. Questo Susanna Camusso che premette, stiamo solo parlando delle slide di Renzi. Se ci sono poche risorse bisogna usarle al meglio e non disperderle. Poi parla della previdenza, delle pensioni, insomma tanti commenti, anche se ovviamente c'è ancora tutto da capire che cosa succederà. A proposito delle critiche di bonus, eccolo qui un altro annuncio, lo fa il ministro del lavoro Poletti. Un bonus per le imprese del sud che assumono giovani o disoccupati. Sono pronti 530 milioni, il bonus per agevolare l'assunzione di giovani stagisti, uno per spingere l'occupazione nel mezzogiorno a favore di under 25 disoccupati di lunga durata, è ciò che annuncia il ministro del lavoro in questa intervista di Paolo Baroni a pagina 3 della Stampa. Vabbè signori, è il momento del lunedì, è il momento dei grandi endecasillabi del nostro Mauro Meazza che vogliamo... Ma... Quando al mattino del lunedì mi reco al mio lavoro e alle sudate carte, mi giunge dalla radio come un eco il sol 24 ore trasfuso in arte, condividendo il nerazzurro credo. Ed apprezzando il fine stile classico, io nell'ingorgo mattutin mi chiedo che rima scoverà oggi per traffico. Beh, grande Meazza, number one. Il finale non era proprio davate, ma Mauro Meazza, meno male che c'è l'Inter anche. Ecco. Icardi! Sbaglia il rigore, Icardi al 26esimo. No, scusa Mauro, non... Scusa, no Carmelo, dai, non si fanno queste cose. Dai, su. La prima volta a San Siro in vantaggio. Mauro, scusaci, non veramente di cattivo gusto. Buongiorno, Mauro. Buongiorno. Vorrei innanzitutto ringraziare l'ascoltatore e precisare che non è un parente. No. No, è un estimatore vero, sincero. Sì. E poi volevo fare anche un appello: se qualcuno avesse dimestichezza con la poesia olandese, mi mandasse degli endecasillabi in olandese, forse così potremmo farci capire meglio anche in sede calcistica. Va bene, fatte queste premesse e ringraziando anche altri ascoltatori che hanno mandato endecasillabi, sono veramente commosso, abbiamo rilanciato l'endecasillabo e questo mi fa molto piacere. Vado a dare lettura dei miei personali endecasillabi del lunedì. Ottimo. Con il tuo permesso. Vada, caro Alessandro. Sebbene vuoi capir ciò che s'asconde in quel che a Londra chiamano l'inside, tu chiedi al sole e il sole ti risponde mostrando ciò che celano le slide. L'imposta rinnovata all'artigiano e la ricongiunzione per le pensioni, quest'oggi tu potrai toccar con mano iscritti e conti in ampi paginoni. Eppur se qualche dubbio ancora copre l'intreccio tra voluntari e blacklist o sconti per condominiali opre, mio caro Alino, tu non esser triste. Chiedi al 24 ore e dall'esperto, anche sul sito oppure in digitale, persino con l'ebook che viene offerto, lo tuo saper come ascensore sale, lasciando ai piani bassi il campionato, noi dell'informazione saliamo all'attico. Il calcio oggi mi piace trascurato, non mi tediar e mandami sto traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Alessandro Milan, il farinel dell'informazione. E va bene, cari ascoltatori, vi ricordo, se ci ascoltate dall'estero e ci seguite dall'estero con fedeltà, scriveteci una mail a 24mattino@radio24.it, perché come sapete ogni tanto vi chiamiamo in onda e vi facciamo raccontare come si vive nei vostri paesi, che cosa raccontano i giornali nei vostri paesi. Allora, intanto, per quel che riguarda l'attualità internazionale è dedicata soprattutto alla sconfitta dell'ISIS in una città chiave, Dabiq, è a nord di Aleppo, siamo al confine tra la Turchia meridionale e la Siria del nord. E l'ISIS perde Dabiq, il villaggio della profezia. Nella notte è iniziata anche la battaglia per Mosul, e quindi siamo questa volta al sud della Siria, al confine con l'Iraq. Racconta il Corriere della Sera: la battaglia epica non c'è stata, la fine del mondo sembra rinviata, i miliziani dello Stato Islamico hanno applicato a Dabiq la stessa tecnica usata per gli altri villaggi che hanno perduto, abbandonati quasi senza combattere. Eppure quei cubi di cemento non intonacato, raggruppati a 10 km dalla frontiera con la Turchia, hanno svolto il ruolo di protagonisti nella telenovela apocalittica diffusa dai predicatori del Califfato. A Mosul invece nella notte è partito l'attacco per riconquistare la città irachena. Nella piana attorno a Dabiq, vaticinò Maometto, dovrebbe svolgersi l'ultimo scontro tra musulmani e cristiani, una sfida che sancirebbe la vittoria conclusiva dell'Islam sull'Occidente. Per ora le truppe irregolari di Abu Bakr al-Baghdadi sono state cacciate da 2000 musulmani come loro, i ribelli siriani appoggiati dall'artiglieria e dall'aviazione turche, che per 10 giorni hanno bombardato le postazioni degli estremisti. Questo racconta il Corriere della Sera, pagina 8. C'è anche invece su Repubblica un commento del grande inviato Bernardo Valli. In 2 anni, scrive, lo Stato Islamico o Califfato ha perduto più di un quinto del territorio che controlla in Siria e in Iraq, estendeva il potere su circa 90.000 chilometri quadrati all'inizio del 2015. Oggi su meno di 70.000, un'amputazione equivalente alla Lombardia. Contano i centri abitati come quelli di Dabiq e di Soran. Sono le città da cui i jihadisti del Califfato sono stati cacciati nelle ultime ore. Sono località in prossimità del confine turco e a nord di Aleppo. E Dabiq è considerata simbolicamente importante per la profezia islamica che immagina in quel posto le forze musulmane vincenti su quelle cristiane. E racconta Bernardo Valli, iniziando da qui, ora la sfida chiave di Mosul. Il vero ostacolo però resta Assad in Siria. Tra l'altro Repubblica anche con l'inviato Alberto Stabile il racconto di la città più martoriata, un po' più a sud di Dabi, che vale a dire Aleppo, soprattutto nella sua zona orientale dove sono asserragliati i ribelli siriani che vengono colpiti ripetutamente dalle forze del presidente Assad aiutate dai russi. Ecco che si continua a morire. La frontiera Aleppo Est, viaggio al checkpoint della morte, qui ci sarà la resa dei ribelli. E su questo si concentra Repubblica con l'inviato Alberto Stabile. Se vogliamo tornare alle questioni italiane, vi segnalo due spunti. Il primo dal Sole 24 Ore sui consumi, secondo l'osservatorio sul business del B2C, curato dal Politecnico e Netcom, aumenta sempre di più l'e-commerce. L'e-commerce sfiora quota 20 miliardi, il giro d'affari cresciuto del 18% e l'ultimo anno trainato dagli acquisti dei beni. In rallentamento invece i servizi, eccolo qua. Se volete sapere, l'e-commerce si compra sempre di più online. Il Sole 24 Ore lo racconta. Mentre Dario Di Vico sul Corriere della Sera racconta il reportage Questa Italia, noi e i cinesi. È un interessante reportage da due punti di vista. Prato, dove la comunità cinese è molto forte, e racconta Dario Di Vico con la quale i rapporti sono sempre un po' di difficoltà, e invece Milano. Dubbi a Prato, euforia a Milano. I due diversi modelli italo-cinesi. La procura toscana dice qui va arginata l'illegalità, mentre gli assessori di Sala corteggiano Associna a Milano. E questo è un bel reportage tra noi e i cinesi di Dario Di Vico sul Corriere della Sera. A che punto siamo, ragazzi? Manca un minuto. Vi segnalo anche la storia raccontata dal Corriere della Sera e dal Giorno di uno chef stellato. Si tratta di Pietro Parisi, uno degli chef italiani più quotati, ha cucinato anche per l'ex presidente francese Sarkozy, che ha cacciato l'estorsore dal locale. Ha raccontato poi tutto su Facebook dicendo: capita spesso, vengono nel mio locale, minacciano. Il modello è quello Gomorra. Ora basta, ne ho cacciato uno dicendo vattene via. Lui è andato via smozzicando qualche minaccia. Però ora farò sempre così. Potevo starmene a Parigi, ma ho scelto di tornare qui nella terra, la terra di contadini, di persone che letteralmente faticano e sudano. Eppure ci stanno ugualmente ragazzi così, ripeto, non sono camorristi, non ti chiedono 100 euro, ma il principio che è inaccettabile. Parisi, il super chef, caccia l'estorsore, ragazzi che vivono come in Gomorra, ora non darò più un euro, dice, e viene ripreso da Corriere e Il Giorno. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccoci qua, siamo sul Giorno, lo facciamo vedere, attenzione, Julian Assange, avete presente Julian Assange, quello che è rinchiuso nell'ambasciata di non so dove, dell'Ecuador, adesso non so bene, credo dell'Ecuador, da anni nella città di Londra, ebbene eccolo qua, Il Giorno ci informa che è andato a trovarlo Pamela Anderson a sorpresa e gli ha portato un pranzo vegano. Ma chi se ne frega!